Bentrovati a questo nuovo episodio live di Distopiche Stanchezze, un episodio live che mi riempie di gioia per una ragione molto semplice ma allo stesso tempo estremamente importante. Io sono sempre K e nelle puntate precedenti avete sentito solo la mia voce, ma questa volta siamo riusciti con un accrocchio tecnologico, poi racconteremo un po' come è successo tutto questo, finalmente ad avere anche l'altro K. K, parlami. Buonasera a tutti. È bellissimo sentire la tua voce. È bellissimo trovarti qua. È una sorta qua. Di cerchio che si chiude e si riapre nello stesso momento. Mi piace questa tua specie di metafora, poi dopo magari approfondiremo anche un pochino. Vero è che noi siamo a svariate centinaia di chilometri di distanza in questo momento, ma se non ricordo male una ventina di anni fa, e questo la dice lunga anche su tante altre cose di cui potremo parlare oggi, eravamo insieme nello stesso studio di una radio in FM. Una radio di quelle vere. Quando ancora non esistevano le web radio e quindi l'unico modo di trasmettere era quella di trovarsi in uno studio, un mixer, dei dischi, dei CD, fianco a fianco e Ed era una cosa fantastica. Ed era una cosa fantastica, infatti. Mentre invece per mettere insieme questa diretta, allora io anzitutto devo fare dei ringraziamenti e devo ringraziare Barbun che su Nebbia.fail, poi parleremo anche di questo perché è lì che raccontiamo anche un po' di cose che facciamo in radio. Mi ha seguito veramente passo passo con la pazienza di un esperto nei confronti di un totale newbo, come si direbbe in gergo, newbie, di un totale novizio nei confronti della tecnologia dello streaming, di streaming, e mi ha fatto lavorare su diverse soluzioni che abbiamo cercato di far funzionare. Ora, a distanza è anche difficile riuscire a farle funzionare e sicuramente io ho i miei limiti nella gestione tecnica, però diciamo che tutto questo lavoro, tutto questo studio di diverse possibilità di streaming, di trasmissione fatto anche a distanza appunto con Barbun, che continuo a ringraziare infinitamente, mi ha permesso di arrivare a questa ultima soluzione che siamo riusciti ad accrocchiare. Abbiamo provato per la prima volta ieri sera, anzi, K, conferma, ieri sera ci abbiamo messo 1 ora e 1 quarto per riuscire a farla funzionare e dopo eravamo troppo stanchi per andare in diretta. Esatto, eravamo quasi sopraffatti dalla stanchezza e dal non riuscire a far sistemare, a far dialogare questi sistemi, però ce l'abbiamo fatta e quindi ringrazio anch'io la persona che ci ha aiutato e Barbun anch'io su Nebbia, sì. Grazie come diceva K all'inizio, anch'io sono davvero molto felice di poter essere qui, di partecipare dopo essere stato evocato nell'ultima trasmissione che K ha fatto ancora in solitaria e che chi di voi la vuole riascoltare poi potrà farlo perché queste sono anche trasmissioni che sono ascoltabili anche in differita quando volete e non soltanto in diretta, Esatto. dove, come K adesso ce lo Infatti ricorda. era quello il punto di dettaglio. Giustamente hai lanciato questa palla perfetta per la mia schiacciata tecnica. No, in realtà sì. No, in realtà sì, poi è una frase bellissima. Questi sono tutti questi impicciamenti del live che in un Ma montaggio che sì, ma potrebbero. no. Infatti potrebbero venire. Vabbè, comunque. Sì, allora, abbiamo diciamo questo progetto, poi racconteremo un po' più l'ontologia di questo progetto più avanti. Diciamo, da un punto di vista semplicemente tecnico, funziona su diversi canali. Primo è il canale Mastodon, che è stankediste@nebbia.fail. Nebbia.fail è un nodo Mastodon italiano, e lì trovate tutti i link. Quando prima di andare in diretta, il link per la diretta viene pubblicato su questo profilo, stankediste@nebbia.fail. Abbiamo anche un canale Telegram che per il momento rimane privato, si chiama Distopiche Stanchezze, anzi potrei addirittura, magari dopo, mentre mando la prima canzone, provo a ciappinare un po' con Telegram e aprirlo quantomeno aprirlo e magari abilitare i commenti, almeno per il momento della diretta. Dopodiché abbiamo una pagina Distopiche Stanchezze su Archive, Web Archive, quindi archive.org, e lì potete trovare le puntate che sono andate in diretta in forma di podcast da ascoltare poi quando vi pare, se vi pare ovviamente. Però, appunto, dicevo l'ontologia. In realtà vorrei che l'altro K, perché io un po' ho già raccontato l'idea e che cos'è questa cosa che stiamo cercando di fare in maniera un po' anonima e clandestina. L'altro K, mi piacerebbe che fossi tu a raccontare da dove nasce questa idea, come viene fuori, perché. Da dove nasce Distopiche Stanchezze? Allora, per rispondere, vi leggo un frammento scritto da un poeta e uno scrittore che penso che spieghi, dal mio punto di vista, il perché di questa trasmissione. L'atto di alzarmi al mattino mi sembra sempre di più una forma disperata di accanimento terapeutico. Come uno stormo di api impazzito, la mente viene sequestrata dal pensiero delle follie assolute che in modo sempre più violento ci hanno spinto negli ultimi 2 anni contro un muro di ricordi di piccole, dolci cose normali che furono quotidiane e oggi scomparse fanno malissimo. Certo, quello che sta accadendo ha avuto una sua progressione. Avevamo percepito da qualche anno che ci stessimo avvicinando a un baratro, ma caderci e starci dentro è profondamente diverso. Nessuna emergenza sanitaria può bloccare lavoro, amicizie, amore e insomma il flusso della vita che giustifica e in altri momenti ha reso sacro l'apparire e il persistere nostro sulla terra. Squid Game, dunque, come perfetta rappresentazione simbolica di questo andare avanti in senso d'accumulo stanco, di giorni in progressione. Gli amori di una vita, l'arte, la poesia, gli incontri tra amici, gli innamoramenti, sembrano vecchie trasmissioni televisive e in bianco e nero. La gioia è vintage e nell'era delle etichette sarebbe facile diagnosticare una depressione e affidarsi a Big Pharma che tutto risolve. Ma non sono depresso, sono totalmente alienato, o meglio, oggi, qua, alieno. Devo dire che mi hai preso di sorpresa perché mi aspettavo un altro scrittore. Però queste sono le parole di Aldo Nove, giusto? Confermo. Ok, perfetto. Ed effettivamente sì, ci raccontano un po' le acque in cui stiamo navigando in questo periodo. C'è una cosa molto buffa che io vorrei raccontare a proposito dell'altro K, che ha soprattutto rilanciato dopo che ha ascoltato in podcast i primi due episodi di Distopiche e Stanchezze, gli episodi a cui non aveva potuto partecipare. Continuava sempre a ripetere, mi dice sì, però in realtà in questo periodo sono talmente stanco, appunto, che non mi sento di aver niente da dire. E tu continuavi a raccontarmi questa cosa, a dirmi questa cosa, poi in realtà quando ci chiamavamo per raccontarci un po' la nostra quotidianità, il nostro disagio, le nostre piccole gioie, insomma, per semplicemente scambiare qualche parola, in realtà le nostre chiamate duravano 35-40 minuti e parlavamo entrambi tantissimo perché in realtà ci sono un sacco di cose su cui riflettere, un sacco di cose da raccontare. E continuava a farmi sempre sorridere questa cosa che tu continuavi a dire, ma no, io in realtà mi sento di non aver niente da dire. E ho detto, scusami, però ieri mi hai parlato per mezz'ora al telefono e mi hai detto un sacco di cose interessanti. E ho detto, semplicemente spostiamo questa cosa qui in forma radiofonica. Esatto, allarghiamo, diciamo, al gruppo questa sorta di dialogo terapeutico, catartico, per cercare un attimo di uscire, no, da questa situazione che sembra un po' paralizzare tutto quanto. Che cosa c'è di meglio della musica, no? Quando senti magari che non hai parole, fai fatica a trovare le parole per cercare di, no? Sì, infatti. Esprimere, e questo vuole essere anche un gancio. È perfetto, perché in realtà poi al gancio io riaggancio un altro gancio, e quindi così cerchiamo di moltiplicare alla N questo agganciarsi, che poi è un po' il senso di questa idea, anche se per adesso rimane, questa trasmissione rimane molto, molto limitata come diffusione. L'idea è proprio di cercare di costruire una riflessione collettiva, allargata, su questo periodo di stanchezza e difficoltà che stiamo vivendo, che spesso tendiamo a identificare come un problema unicamente personale, quando è evidente, anche come diceva Aldo Nove, dalle parole che aveva letto K, che la questione è sistemica. Comunque l'altro gancio arriva adesso, poi, perché mi perdo con le parole. K è un grandissimo ascoltatore di musica, lo è stato per tutta una vita, e ha un sacco di cose interessanti da farci sentire, per cui probabilmente la playlist di questa serata sarà più sua che mia, ma sarà nostra in questo senso. Sarà più K che K. Esatto, sarà più K che K. Il fatto che, come direbbe Guccini, K e K si dica allo stesso modo confonde orribilmente le cose. Quindi intanto, visto che negli altri episodi mi era stato consigliato di dire i pezzi, quindi chi sono gli artisti, quali sono le canzoni, così se qualcuno se le vuole andare a pescare, se le può andare a pescare. Lo diremo alla fine, per lasciare un minimo di... Ah, ok, va benissimo, perfetto, mi piace tantissimo questa cosa qui. Allora, intanto noi buttiamo su un po' di musica e poi dopo ci ritroviamo per riprendere il filo delle nostre conversazioni. Thank you. Quindi abbiamo detto che i titoli delle canzoni e gli autori delle canzoni li diciamo solamente alla fine per lasciare un po' di sorpresa e di suspense. Esatto. Ok, quindi adesso non vi diciamo che cos'era questo, però direi che è un pezzo che rientra molto nella come atmosfera sonora, ci parla un po' di quello stato di stanchezza su cui stiamo della ragionando. Desolazione anche di questo momento, no? Dove si fatica a vedere la fine. Sì, quanto sta accadendo. Desolazione. Quindi da un lato sicuramente c'è l'aspetto pandemico che ci mette un po' in difficoltà, ci affatica, ma dall'altro, e il nome di questa trasmissione un po' clandestina, un po' estemporanea, lo ricorda, c'è anche un altro aspetto che non è legato solo alla gestione psicologica di questo tempo strano, che è quello della distopia. Quello del futuro che forse sta venendo un po' a mancare in qualche modo. Cosa ne non dici, è più quello K? Di una volta. Ecco, non è più il futuro di una volta. Io mi ricordo una volta su un muro di una città, c'è un leggerissimo, forse leggerissimo ritardo, ma comunque va abbastanza bene. Dicevo ritardo tra mete come audio. Mi ricordo su un muro di una città di tanti anni fa, perché la scritta non credo esista, no, non esiste più, non esisteva più già un po' di anni fa, c'era scritta questa cosa, che era: neanche i sofficini sorridono più. Ecco, questa è una... E forse... potrebbe essere trasformato in un meme oggi. Sì, oggi sarebbe stato un meme forse, più che una scritta su un muro, è vero. Come sintesi, no? Concettuale di quello che abbiamo in questi giorni davanti agli occhi. Allo stesso tempo mi viene da pensare che ci fosse forse in quella scritta lì qualcosa di visionario, no? Di precursore rispetto ai tempi, al di là del fatto che i sofficini non hanno mai sorriso veramente, adesso nel senso ci abbiamo provato tutti a fare il taglio con la forchetta in modo che venissero sorridenti, non è mai successo e sfido qualcuno a portarmi una prova del anche contrario. Anche perché non c'era quel ripieno all'interno, come si vedeva nella pubblicità, è stata proprio un inganno. Tra l'altro, esatto, e questo ci parla ancora di più dell'inganno che forse è una caratteristica costitutiva delle società in cui viviamo. In questo senso, a proposito di inganno e di discorso, ogni tanto se sentite la mia voce che cambia è perché io ho due o tre schermi intorno da controllare per vedere cosa arriva e cosa deve andare in onda dopo, e quindi sono un pochino... ogni tanto mi perdo un po'. E dicevo, a proposito di questi discorsi illusori, no? Di questi discorsi che si pretendono veri sulla realtà, ma che in realtà, appunto, non lo sono davvero. Sono sostanzialmente una postura ideologica, una postura comunicativa. Mi veniva in mente, e ne vorrei parlare con te, K, perché... Sì. Perché so che è una roba a cui sei sensibile. Poi apriamo in maniera... sventriamo il tema del lavoro e potremmo non finire più. Però insomma, dicevo, oggi mi è capitato sotto su Twitter questo messaggio che era stato pubblicato su LinkedIn da un personaggio di cui non ricordo il nome, che faceva l'elogio del farsi il culo, dello spaccarsi la schiena, del faticare in uno sgabuzzino perché l'azienda non ti può dare una scrivania e quindi dello stare lì chiusi e lavorare a straordinari senza avere neanche un rimborso spese per un anno e mezzo perché è giusto che sia così, perché tu inizi, quindi non devi pretendere diritti, non devi pretendere di essere pagato per il lavoro che fai, non devi, devi semplicemente star lì a testa bassa, appunto, farti il culo, spaccarti la schiena, perché è l'unico modo per poi poter andare avanti. E a me questa cosa qui mi manda fuori di testa, cioè se questo tipo di discorsi, tra l'altro fatti da chi ci è passato, e che poi in fondo ci siamo un po' passati tutti da queste situazioni di precarietà lavorativa, e dici, ma io... cioè, non so veramente da che parte da che parte cominciare, non tanto per smontare, perché non dovrebbe aver neanche bisogno di essere smontato un discorso del genere, ma che ci sia qualcuno che pensi questa roba, caro K, a me mi manda fuori di testa. Eh sì, perché qui tocchiamo un po' quello che prima tu dicevi giustamente, non è soltanto la pandemia che genera stanchezza più o meno distopica, ma è anche proprio la quotidianità lavorativa, no? che si vive sulla pelle, che viviamo tutti quanti, che in qualche modo ci proietta all'interno di un futuro che forse già anche solo qualche anno fa avremmo immaginato come distopico. Il fatto stesso che sotto la pandemia il cosiddetto smart working sia diventato così diffuso, così pervasivo, al punto da, no, distruggere qualunque residuo di distinzione fra vita e lavoro, facendoci tutti quanti lavorare di più con lo stesso guadagno. Cioè, tutto questo ci fa capire quanto il lavoro probabilmente sia il lavoro troppo per chi ce l'ha e troppo per chi non ce l'ha, in una divaricazione tra questi due poli sempre, sempre crescenti, mentre l'unica alternativa è quella che avevano già indicato negli anni 60 e 70, cioè il lavorare meno tutti. Sì. Lavorare meno, lavorare tutti, lavorare meglio come unica strada, al di là di tutti i discorsi possibili che si possono fare per migliorare la nostra vita. Sì, tra l'altro, proprio su questo discorso ci sono delle sperimentazioni in atto in giro sulla riduzione dell'orario di lavoro e in alcuni paesi sta funzionando, diciamo, sono piccole sperimentazioni per adesso, e la riduzione dell'orario di lavoro avrebbe anche una, oltre che delle conseguenze ottime per la qualità della vita delle persone che lavorano meno, avrebbe anche un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni, quindi, diciamo, rispetto all'atto distopico del nostro chiacchierare, potrebbe forse darci anche una possibilità in più di uscirne non troppo ammaccati, non troppo scarcassati. Però c'è un altro elemento che hai tirato fuori che mi fa pensare, che è l'aggettivo smart, che viene attaccato un po' a tutto ultimamente, al netto del fatto che per esempio in Italia si registra anche una forte opposizione allo smart working, al lavoro a distanza, per questioni, credo, quasi esclusivamente di controllo, se non demagogicamente di rilanciare i consumi del baretto di fianco all'ufficio. Ma l'aggettivo smart è attaccato a talmente tante cose, e la prima che mi viene in mente è ovviamente lo smartphone, che non è un telefono intelligente, e quindi questo concetto di smart forse andrebbe smontato e tirato fuori dalla retorica che lo circonda. Perché, appunto, se pensiamo allo smartphone, di fatto è una scatola chiusa che ti permette di fare quello che chi l'ha progettato e chi ha progettato le applicazioni vuole che tu ci faccia. Ci sono delle riflessioni e discorsi che secondo me potrebbero essere fatti a questo riguardo. E non è un caso, in realtà, e K, so che ci è pieno dentro questa cosa qui, non è un caso che siamo di venerdì sera. E prima di andare in diretta stavamo facendo appunto qualche prova giusto per vedere se tutto funzionava a dovere. E cosa mi raccontavi? cosa mi stavi raccontando rispetto al fatto che siamo di venerdì sera? Che siamo arrivati come arriviamo ormai da troppo tempo a questa parte, al venerdì sera, che siamo completamente fusi e diciamo la stanchezza, la distopia, e quella, la stanchezza, è ancora, diciamo, più grande, più quasi insostenibile, al punto quasi che saremo quasi tentati di andare a dormire e non fare neppure la trasmissione. Esatto. Questo è quanto. Per cui forse potremmo anche pensare, magari per le prossime puntate, di farla di sabato o di domenica, dove magari uno riesce a recuperare quel minimo di lucidità in più per poter appunto. Però io su questo, vedi, per esempio, io ho una settimana strana e per me i giorni in cui ho bisogno di riposare di più la testa sono il giovedì e il venerdì, e di solito mi ritrovo a lavorare infatti il sabato e la domenica. Questo perché ho una certa flessibilità nel gestire certi orari, non tutti, ma certi orari. E il giovedì e il venerdì sono talmente stremato dal martedì, dal lunedì, martedì, mercoledì, che non riesco. Cioè, nel senso, anche se mi metto lì e passo 10 ore davanti al computer, probabilmente di produttivo, di reale, di concreto, più di un'ora, un'ora e mezza non riesco veramente a metterla in atto. E leggevo, non mi ricordo più chi, perché poi anche qui la memoria salta a pezzettini, anche per questa stanchezza, ma non solo. Leggevo su Twitter qualcuno che diceva: cavolo, arriviamo al sabato che siamo talmente esausti che l'unica cosa che riusciamo a fare è andare a fare la spesa e tornare a casa. Esatto, è proprio così. E mi fai tornare in mente un tweet che ho letto di qualcuno che non cito perché magari non vuole essere citato, e che dice che la metà delle persone che conosco sono in burnout e l'altra metà pure, ma non lo dicono. Abbiamo solo una vita, scrive questa persona, e stiamo cercando di funzionare dentro una pandemia. Non dobbiamo per forza perpetrare su di noi i danni di questa orrenda società performativa. Ecco, cioè qui unisce, no, i due discorsi che abbiamo fatto, questo brevissimo tweet, fino a oggi. Cioè il punto è, se neppure, diciamo, sotto lo scacco di questa pandemia riusciamo a mettere in discussione appunto i meccanismi di questa società performativa, come la definisce in questo tweet, davvero forse abbiamo poche speranze. Tra l'altro sì, quindi infatti proprio su questo è come se l'interruzione pandemica, che è un'interruzione relativa, perché poi c'è chi si è ritrovato a lavorare molto di più e anche in condizioni decisamente peggiori, però diciamo c'è stata un'interruzione a livello di società, e questa interruzione ha portato uno scollamento nelle nostre vite, nelle nostre percezioni, e adesso che, nonostante quarte ondate, eccetera, tutto quello che sta succedendo intorno, e adesso che ci è stato chiesto di ritornare alla normalità, questo scollamento, io ho l'impressione che non faccia altro che allargarsi, e che di conseguenza questo ritorno, questo reinserirsi in un ritmo, in un credere in quello che si faceva prima, diventa sempre più difficile per una maggioranza, per una, sì, mi dire quasi maggioranza, non so, però sempre più grande di persone. Sono totalmente d'accordo, e penso che questo discorso qui poi viaggia su vari piani paralleli che si intrecciano e in alcuni casi, come sicuramente per me, come credo che sia anche per te, per tutta una serie di persone che, come dire, a questo livello aggiungono anche una, o avevano già una percezione comunque di una realtà, di un'assurdità, quasi direi esistenziale, del vivere quotidiano. Per cui nella situazione attuale si ha veramente la sensazione che fare finta di credere a quelle che sono le cose, l'avrebbe detto in questo modo un grande scrittore, pensatore che noi amiamo, che è Cioran, diventa un'impresa pressoché impossibile. Cioè la mia sensazione è quella che per tante persone, sempre più persone, sia proprio in qualche modo saltato il banco, saltato quel residuo di senso che ci permetteva tutto sommato di vivere una quotidianità, o perlomeno una parvenza. E questa crisi di senso che si intreccia tra pandemia, sfruttamento del lavoro e anche quella che è l'orizzonte catastrofico, ecologico, appena alziamo lo sguardo a domani e dopodomani, oltre l'oggi, no, della pandemia, per cui veramente questo insieme penso che generi una paralisi e qualcosa che almeno io trovo che sia in questa fase difficilmente contrastabile, sì, anche a livello emotivo individuale, io aggiungerei, non solo a livello politico e di società.

ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. È un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. È un Dio, è un Dio, è un Dio, è un Dio. È un Dio senza fiato, non credere mai. Lacrime, lacrime, non ce n'è mai abbastanza quando vien su la scoglionatura. Inutile dire, cuore mio, spaccati a mezzo come un uovo e manda via il vischioso male. Quando ti prende lei la bestia, non c'è da fare proprio nulla, solo stare ad aspettare un giorno appresso all'altro. E quando viene, comincia ad attaccarti la bassa pancia. Quindi sale su allo stomaco e lo agita in tremolio di frullatore. E dopo diventa ansia, che è come un sospiro trattenuto, che dice vengo su e poi non viene mai. E Laura diceva, mi ricordo, che questo faceva male, ahimè, davvero molto male, come ti siringassero da dentro le budella e le graffettassero e punzecchiassero, insomma tanti scorpioncini appesi al tubo digerente, così che poi dovevi per guarire cercare un disinfestatore che ti imponesse i fluidi, magari girando mezza Italia, e trovatolo fare poi sala d'attesa in compagnia di melanconici, stultifiri, biliatici, neurotici ed altri disperati con artrosi e acciacchi d'ossa, persino invasamento del maligno. E l'angelo, anche ciò mi rammento, e ve lo passo, questa scoglionatura che dà sul neuro duro la chiama scoramenti, al plurale, perché quando arriva non viene mai in solitudine. Si porta appresso nevralgie d'ossa, brufoletti sulle labbra o nel fondo schiena, ma poi i più gravi mali, quelli della vocina. Cioè chi sei? Cosa fai? Dove vai? Qual è il tuo posto nel gran troiaio? Che farai? We'll be right back. this away. Eccoci di nuovo qua dopo un pezzo piuttosto straziante. Poi dopo lascerò a K fare l'elenco delle canzoni che abbiamo ascoltato questa sera, soprattutto perché almeno per il momento, a parte una, sono tutte scelte musicali sue. E K, tra l'altro, aspetta, prima faccio Sì. una piccola. No, sì, adesso arrivo subito, ma prima volevo fare una piccola premessa comunicativa. Vi ricordo che esiste un profilo Mastodon per questa trasmissione che si chiama Stanche Diste su nebbia.fail, il server, uno dei nodi italiani di Mastodon. Mastodon, per chi non lo conoscesse, è un social network federato e non centralizzato. Diversamente rispetto ai social network commerciali, soprattutto non è commerciale, quindi chiunque può costruire un proprio nodo di questo social network e mettersi in contatto con gli altri nodi. Quando hai detto federato e non... No, Hai avuto paura? mi è No. venuto in mente, perché a quest'ora comunque si dicono anche delle cose così, sì, ma molto generato e non creato. Ecco appunto, interessante poi non mi viene la parola in italiano, su queste risorgenze religiose che arrivano a quest'ora della sera, effettivamente, interessante. Direttamente dai nostri anni di dottrina, vi ricordate? La Già la parola dottrina, dottrina, siamo stati siamo stati indottrinati, indottrinati. esatto, è Se bellissimo. non altro, però, almeno ci veniva detto che lo eravamo. Veniva chiamata dottrina. Oggi Oggi siamo indottrinati, ma non ce lo dicono, ce la spacciano per la libertà. spacciano per... Esatto, spacciano per informazione O e ti per fanno pagare anche un informazione. euro e mezzo per i fogli su cui è scritta. Sai che credo che pochissime persone, guardavo recentemente i dati, le statistiche di vendita dei quotidiani italiani, sono tutti in picchiata sostanzialmente, e non mi stupisce vista la qualità. Sono sempre meno le persone che acquistano un giornale cartaceo. E ciò nonostante, cioè, poi mi vengono in mente le cose mentre parlo, quindi ogni tanto mi interrompo e ricomincio dei discorsi in modo. Come facciamo poi quando io e te, Kappa, ci facciamo le Esatto. nostre chiacchierate al telefono? Cioè, abbiamo È così. queste ispirazioni momentanee che si impongono. In realtà, appunto, ce la si prende tanto, no? Con internet, con i social media che diffondono menzogne e falsità. Quando poi in realtà lo fanno anche i giornali, tutti i quotidiani, i principali quotidiani, lo fanno le televisioni, quindi questo mascherarsi dietro il nuovo della rete è non solo ipocrita, ma è veramente ridicolo. E comunque quello che tu dicevi prima, torno un passo indietro rispetto all'ultima cosa che hai detto, cioè noi Vai. stiamo andando in streaming, ma lo stiamo facendo nel vero senso della parola di stream of consciousness, Esatto. fondamentalmente. Eh sì, E è quindi vero. streaming, quello vero. Uno streaming quello vero, nel senso dalle nostre teste direttamente alle casse o ai vostri auricolari. Senza paracadute, senza pretese anche di dire cose sensate o Ma comunque... in realtà, secondo me, un po' di cose sensate le stiamo anche dicendo. Ma Sì, è vero che. magari Vai, vai. con quel, come dire, quell'umiltà in più rispetto invece a magari altre trasmissioni o comunque anche chi fa seriamente un podcast dove comunque insomma, c'è tutta un'impostazione, diciamo è sempre un po' quell'attitudine punk, Sì, no? ti vorrei Non ricordare però sappiamo... che io ho una scaletta qui sotto, un foglietto di carta che fa da scaletta, Hai voluto la scritta trasmissione in malissimo a due. mano. Esatto, vedi, ok, Ha cioè, vedi. invocato la mia partecipazione, sono arrivato E a qui ulteriormente aumentare complicare. il livello di complessità, ma a moltiplicare anche il flusso, come dicevi tu, il flusso di Esatto. coscienza, per cui le nostre voci, che sono qualcosa di organico, che però sono in comunicazione attraverso del digitale, quindi le nostre voci diventano una sequenza di 0 e 1 sostanzialmente, quindi diventano codice, diventano scrittura, e poi sono ridecodificate dagli apparecchietti, dai dispositivi che state usando per ascoltarci, sempre che ci ascoltiate, perché non è detto che ci siano forse un paio, sì. E No, questi però ecco, dispositivi. Sì, vai, vai, scusa, vai. a proposito degli ascoltatori, che non sappiamo se qualcuno ci sta ascoltando o ci ascolterà, però mi piace pensare magari all'ascoltatore che ritroverà la registrazione di questa trasmissione magari fra 5 anni, fra 10 anni, ma forse anche da 30, un Stiamo facendo MP3 in dell'archeologia qualche dei media archivio. così. Io voglio salutare chi ci ascolterà fra qualche anno. grazie per l'ascolto. Non so se questa sia una sorta di velleità o una forma di desiderio di protagonismo, ma magari anche solo una semplice idea di lasciare una traccia, però effettivamente l'archeologia è un'utopia. Se qualcuno ci ascolterà fra 30 anni, forse vuol dire che il mondo non è finito, esatto, che c'è qualcosa che è ancora rimasto in piedi. Però è vero che è interessante il fatto che senza queste macchinette digitali che ci abbiamo di fronte in questo momento e che probabilmente chi ci ascolta ha di fronte o di fianco o intorno, insomma, o in tasca in questo momento, tutto ciò non sarebbe possibile, perché è tutta una questione di codifica e decodifica e ricodifica. E questa cosa un po' mi affascina, questo passare dai linguaggi naturali ai linguaggi digitali, quindi al codice, e ritorno, perché poi appunto chi ascolta non ascolta il suono di un fax che ti sorprende quando chiami un numero fisso, ma ascolta delle voci, e queste voci sono state ritradotte, perché si tratta anche di un lavoro di traduzione, dal... Non so, mi sto un po' perdendo. Sì, ho la stessa sensazione di esserci persi. Che è parte del gioco. Che è parte del gioco, e a questo punto abbiamo ascoltato, tu appunto mi dicevi il discorso, siamo partiti dal discorso musicale. Sì. E la musica sarà uno degli elementi comunque di queste chiacchierate, di queste conversazioni. Sì, almeno finché qualcuno non ci viene a tirare una mazzata per questione di diritti e copyright, ovviamente, perché anche lì, adesso che la diffusione è scarsa, quindi non credo che verrà, però insomma potrebbe essere un'incognita. Sì, diciamo anche che forse gli artisti che manderemo qui probabilmente dovrebbero avere piacere di questo... Mi sono incartato, facciamo pubblicità ad artisti poco noti, artisti particolari, quindi sì, aiutiamo la esatto. diffusione di buona, buona musica. Esatto, questo è sicuramente uno degli obiettivi anche di questa riflessione, perché intanto la musica è una forma di espressione umana e forse, come dicevi tu Kappa prima, aiuta anche a rendere cose che magari non riusciamo a rendere, sentimenti o stati d'animo, situazioni che non riusciamo a rendere direttamente con il solo linguaggio, con le sole parole. E allo stesso tempo mi sono perso anch'io di nuovo, e quindi questa cosa è bellissima, perché sto pensando a quello che dicevi tu, poi quello che volevo dire io e questa cosa qui. Però è più divertente, secondo me, perdersi in due in questo caso, in questo gioco di rimbalzi, sì. No? Piuttosto che perdersi da solo, perché quando io mi perdevo da solo, quando facevo le dirette, diciamo i miei monologhi in diretta, in distopiche stanchezze, mi perdevo dentro la mia testa. E invece così mi perdo un po' anche dentro la tua. E questa cosa è molto interessante, perché si creano dei percorsi nuovi che non sarebbero mai venuti fuori se ci fosse stata solamente la mia testa e la mia bocca qui a pronunciare le parole che vengono dalla mia testa. Questo mescolarsi di perdizioni, in realtà non sono perdizioni, questo mescolarsi di possibilità di perdersi, credo sia una cosa molto bella che possiamo fare in queste dirette estemporanee. Volevo giusto, non mi ricordo se non credo di averlo già detto, ho aperto il canale Telegram che si chiama Distopiche Stanchezze. Adesso è un canale pubblico, credo che lo terrò pubblico solamente durante le dirette, almeno in questa prima fase, poi capiremo come andare avanti, come elaborare anche un po' di strategie di comunicazione. Però se qualcuno adesso, credo, cerca su Telegram, se qualcuno per sbaglio si sta ascoltando, che è capitato qui per caso, cerca su Telegram Distopiche Stanchezze, può abbonarsi al canale, che probabilmente ritornerà privato alla fine di questa diretta. No, per adesso non si è iscritto nessuno, intanto scusate, stavo controllando, perché siamo sempre tutto live alla ricerca di feedback. Scusate, sto mettendo troppe parole inglesi qua in mezzo. Sì, no, questo non va bene, questo non va bene. Infatti. E cosa facciamo però se questo... come possiamo uscire da... bisogna di... boh? Guarda, mi hai fatto venire in mente una... Prima parlavamo di musica, no? Di quello che la musica può fare, del senso anche della musica in questo programma. Mi è tornata in mente, secondo me, una frase di quelle proprio fulminanti, detta da da Choran, che è un po' il nostro... Come possiamo definirlo, Choran? Non lo so, guida spirituale no, perché sicuramente lui avrebbe rifiutato questo tipo di definizione. Un aiuto alla sopravvivenza. Un aiuto alla sopravvivenza, ecco, un aiuto alla sopravvivenza dei sicuramente... momenti difficili. Sì. E Choran in un frammento ha scritto, inizia riportando un ulteriore frammento di Nietzsche, e dice Nietzsche: non posso fare distinzione tra la musica e le lacrime. E Choran aggiunge: chi non lo capisce istantaneamente non è mai vissuto nell'intimità della musica. Ogni vera musica è sgorgata dalle lacrime, nata com'è dal rimpianto del paradiso. Io credo che migliore definizione di musica non si possa dare. Con questo torniamo più terra terra, ma neanche tanto in realtà, perché poi c'è tutta anche la questione del... cioè, le cose che ci hai fatto ascoltare, anzi, se vuoi potremmo iniziare anche a nominare intanto i primi pezzi che hai proposto questa sera. Certo. Allora, il primo pezzo è di un gruppo che si chiama La Bradford e la canzone si intitolava Lake Speed. Il secondo pezzo che abbiamo ascoltato è invece di un cantautore che si chiama Vic Chestnut e il titolo della canzone è Everything I Say. Ottimo. La terza canzone Vai. Che abbiamo ascoltato invece l'hai scelta tu, sì. E io non mi ricordo il titolo, era Coda di Lupo di Fabrizio De André, come molti di voi, poi dico molti di voi come se stessimo andando in diretta su una radio nazionale con migliaia di ascoltatori, siete probabilmente tre e probabilmente tutti e tre conoscete questa canzone, poi magari quelli che ci ascoltano in podcast saranno, non so, sette. O quelli, come dicevi tu, K, che ci ascoltano tra 30 anni, sarà un'equipe di ricerca, di archeologi dei media che cercherà di capire il collasso della nostra civiltà. Noi gettiamo questi MP3 come fossero bottiglie, no? Nell'oceano dell'infosfera e da qualche parte magari approderanno, qualcuno le ritroverà. Forse l'infosfera... Niente. Cosa mi hai sì, tirato no, fuori? È una cosa... No, l'infosfera... Parliamo dell'infosfera. È quel liquido amniotico che ci avvolge di segni, parole, immagini, suoni, e che forse sta diventando un ambiente forse ancora più tossico e inquinato dell'ambiente di cui tanto si parla adesso, esterno, quello della natura che cerchiamo di tutelare, e questo mi fa venire in mente dei discorsi che noi abbiamo sempre fatto sul discorso appunto della comunicazione, dell'informazione, del in passato noi abbiamo anche cercato di fare a modo nostro della informazione indipendente, della controinformazione. Oggi per come si è costituita, magari si costituisse, media orribili, costruita e l'infosfera, non ha più forse senso parlare di possibilità di controinformazione. Io te lo dicevo in qualche telefonata di tempo fa, mi ricordo. Io penso che ad oggi l'unico modo di sottrarsi a questo inquinamento, no, di questo ambiente informativo che tutto avvolge, tutto ci dalla mattina 24 ore su 24, sia il silenzio. Sottrarsi. Il silenzio, la musica, sottrarsi. Questo proprio come forma estrema e ultima di tutela personale. È una missione di sconfitta nel non riuscire in qualche modo anche a voler contrastare o cercare comunque di resistere a quelle che sono le menzogne che il potere da sempre cerca di veicolare, no? Certo. Però, ma sì, oggi è sempre, la mia idea è che sia sempre difficile, quasi impossibile. Sì, quindi... io volevo giusto sottolineare il fatto che non parlavi di sconfitta, in realtà... io credo che sia solo relativamente una sconfitta, nel senso, se ne parlavamo giusto qualche giorno fa, se si tratta davvero di analizzare le forze messe in campo, è stato forse ingenuo da parte nostra al tempo Poi volendo nei prossimi episodi vi racconteremo anche qualche dettaglio in più, ma questo toglierebbe un po' di forza al nostro anonimato, adesso vedremo. Detto, un tempo forse è stato ingenuo da parte nostra pensare di poter sfidare questo golem monolitico, questo Moloch, esatto, Moloch era la parola che stavo cercando in realtà, grazie. È stato un po' ingenuo da parte nostra l'idea di volerlo sfidare, anche se ci abbiamo creduto tantissimo e in qualche momento è sembrato pure... è sembrato che potesse funzionare. Abbiamo delle attenuanti. Sì, non parlerei di sconfitte in questo senso, nel senso che non è mai stata una battaglia, non è mai stata una partita. Sì, forse. Diciamo le attenuanti erano la nostra giovane età, il nostro certo. Ingenuo entusiasmo e poi perché era comunque un momento, dico solo una parola che forse si può sintetizzare, Seattle. Il momento sì. In cui Seattle, perdonate la pronuncia, non so se la perdoniamo, no, scherzo, come tante altre cose inizia a saltare tutto, era un momento in cui sembrava che un certo tipo di battaglie politiche, lotte, impegno poteva avere un senso. Sembrava ecco. Possibile. Esatto. Sembrava possibile, sì. Io nel frattempo... Tra l'altro posso dire che ad esempio... Infatti vai, perché mi stavo incartando già di nuovo tra mille media. Di radio c'è stato tanti anni fa una puntata di una trasmissione che facemmo insieme che fu dedicata ad esempio a quello che era accaduto a Genova. Ricordo. Quindi anche questo è un... come dire, sono dei cerchi... Che non si chiudono. In qualche modo che non si sono mai chiusi, che si riaprono, la radio che si intreccia con altri tipi di discorsi, quindi musica, politica. In qualche modo noi ora vi parliamo un po' da reduci, sconfitti, sì, ma sì. Non completamente. Per quanto le distopie siano stanche, esatto. Il fatto che ancora comunque tentiamo di parlare, dire qualcosa, trasmettere qualcosa, diciamo che questo è un tentativo di ultima forse flebile resistenza. E parliamo bene di resistenza e non di resilienza, perché la resilienza ci ha rotto. No, potrei veramente esatto, siamo... pagare un killer non diciamo cose che no, però sì, la resilienza. E io comunque stavo tra l'altro muovendomi tra vari software che ho aperti, tra i miei vari dispositivi in questo momento. E avevo visto delle notifiche brillare, quindi sono andato a vedere, ho detto, ma magari qualcuno ci sta ascoltando e ci sta scrivendo qualcosa. E in realtà erano solo problemi legati alla gestione software di qualcos'altro, quindi niente. Però in realtà questo mi ha fatto pensare che, e ancora qui io parlo come se ci fossero masse che ci stanno ascoltando, che non c'è un reale modo per entrare in contatto con noi durante queste dirette. Esiste un canale Telegram che si chiama Distopiche Stanchezze, che di solito è chiuso e in questo momento è aperto, ma magari si richiude e si riapre finché non decidiamo bene come gestirlo. Esiste un canale Mastodon che è stanchediste@nebbia.fail. Mastodon è un social network federato non commerciale. E sono esitante nel dare un indirizzo email, però probabilmente magari dalla prossima puntata daremo anche un indirizzo email. Perché una delle cose che ci interessa, che ci interesserebbe fare, è comunque, almeno per me, poi K mi dici tu se sei d'accordo, è di mettere in comune, no? Se si tratta di fare una riflessione collettiva, le nostre voci sono soprattutto, o dovrebbero essere soprattutto, una sorta di catalizzatore, no? di punto di raccolta, di testimonianze, di esperienze, di racconti, per mettere in comune proprio questo vivere, questa stanchezza che è pandemica e che è distopica allo stesso tempo, proprio per il momento che stiamo vivendo. E quindi forse sì, K, dovremmo trovare un modo per renderci più raggiungibili, anche se stiamo cercando di tenere queste trasmissioni anonime e clandestine in qualche modo. Non so se sei d'accordo, però insomma magari ci studiamo... Non lo sappiamo ancora, diciamo che queste sono prime puntate molto sperimentali, non sappiamo ancora che cosa potrà nascere in realtà da questo. Sono trasmissioni che in fondo sono ancora chiacchierate telefoniche allargate a qualche potenziale passante che magari intercetta Esatto. più o meno casualmente qualche amico. Diciamo è un germoglio. Non c'è, Oddio, ma non mi piace questa come sei metafora. bucolico? Beh, è bellissimo. No, Quindi no, troppo bucolico si sente che sono. abbiamo passato il varco delle 11 di sera e che la Sì, e stanchezza sta iniziando a tirare stiamo un delle attimo perdendo il legnate. controllo, ma d'altronde è un po' anche Lo nello spirito della scopo, trasmissione esatto. di non avere, cioè di poter andare anche un po' senza a briglie sciolte, senza timore, perché di là magari ci sono gli ascoltatori di Radio XX, magari come accadeva quando trasmettevamo in una radio vera. È vero, è E vero. quindi. E Però è bello anche quindi, così, certo, questo esatto. E saltellare sarebbe di bello idee. anche, viene già comunque la curiosità di anche sapere se qualcuno in ascolto volesse fare un commento, intervenire. Però appunto, come dicevo prima, la difficoltà sta proprio che non abbiamo dei veri e propri canali di comunicazione per essere contattati. E Ma questo. infatti, quindi questa per ora Ci è una, così, una lavoreremo. curiosità, magari cerchiamo noi come dire, di essere anche pubblico, visto che Insomma, siamo non solo esageriamo. noi. Cioè. Sdoppiarci, striplicarci. Già, è un miracolo che siamo riusciti a mettere insieme uno streaming a due voci Esatto. a centinaia di chilometri di distanza. Tra l'altro, non vi Cioè, abbiamo qui detto, rischiamo. esatto, non vi abbiamo Esatto, detto esatto. che questo accrocchio tecnico che abbiamo trovato ci permette di essere in diretta in chiacchiera, quindi voi sentite le nostre due voci senza particolari ritardi e latenze, quindi da questo punto di vista funziona benissimo. Ma siccome sono io che gestisco la regia e lo streaming di questa trasmissione, quindi anche la parte, diciamo, musicale, K non sente, cioè, sa quali sono le canzoni che stanno andando in onda, ma non le sente. E questa cosa qui è. E vi dico di più, nel Dici di momento più. in cui K lancia una canzone, io cerco più o meno di lanciare la stessa canzone nello stesso momento per evitare queste pause di 4, 5, 7, questa sera le canzoni erano molto lunghe, anche 7, Lei 8, scelte tua. 10 minuti di silenzio, che è una cosa, cioè, In silenzio. Allora, tra veramente l'altro, diventa una se posso, a distopica. proposito del chiacchierare, Desolazione distopica desolazione, al cubo. se posso intervenire, scusa, qui c'è l'unico messaggio che abbiamo ricevuto, e questo mi fa molto sorridere, dice: smettete di parlare così a caso, che non so, mettete un po' di musica. Allora, sai cosa possiamo fare? Potremmo mettere un po' di musica intanto, così ci prendiamo una pausa. Io mi vado probabilmente a versare un altro bicchiere se trovo qualcosa. E quindi io metterei però a questo punto il terzo pezzo che mi avevi proposto tu, K, se ti va bene. Va benissimo. Ok, poi dopo magari facciamo un po' di chiusura e ci inventiamo un pezzo Sì, per arrivare fino in fondo. Ok, allora. effettivamente ci avviciniamo alla conclusione di questa serata. Sì, siamo quasi là, 1 ora e 20, dai. Per adesso è la puntata più lunga, ma a due è anche più facile, più divertente. Ok, un po' di musica, poi vi A presenterà dopo. sempre K e poi dopo riprendiamo tra un attimo. Thank you. Allora, che effetto ti fa, K, ritornare in radio? È un'emozione, lo dico veramente quasi, quasi un viaggio nel tempo. Addirittura. Eh sì, perché penso che l'ultima volta che abbiamo fatto qualcosa in radio, stiamo parlando forse di una dozzina di anni fa. Forse anche di... forse è vero, forse abbiamo fatto qualcosa nel mezzo. Sì. Senza stare a rivelare troppi dettagli, sì, qualcosa abbiamo fatto alla fine degli anni 10. E l'idea di dobbiamo fare qualcosa in radio, ci piacerebbe fare qualcosa, è un discorso che è sempre tornato, perché io personalmente penso che l'esperienza della radio sia una delle cose più belle che abbia fatto, vissuta un po' in tutte le epoche, prima quando c'erano ancora soltanto i vinili, cassette. E poi il periodo dei CD. Tra l'altro oggi non c'entra vecchio, tanto. Un vecchio amore da radio. Non c'entra tantissimo, però oggi ho visto un film di un regista finlandese, di cui ovviamente non ricordo il nome perché è l'unico finlandese che mi ricordo, è Kaurismäki. E non so perché i film finlandesi non hanno mai una connotazione temporale. C'è sempre questo passato indefinito che è un po' presente ma è un po' passato, e che non si riesce mai a capire. E la protagonista di questo film aveva un Walkman e quindi ascoltava le cassette. C'è a un certo punto una scena in cui lei riavvolge con una matita il nastro di una cassetta che si è sfilato, che è un gesto che appartiene al passato, no? Quindi come ricordavi tu, sì. No? Ed è interessante vedere questa rappresentazione. Io credo che in Finlandia, non so, ci sia una sorta di porta spazio-temporale, almeno per quel che riguarda la regia cinematografica, per cui quello è la percezione è come se da fuori, no? Guardando solo i film di registi finlandesi, come se fosse chiusa in una bolla isolata dallo scorrere del tempo. Sì, questo è molto vero. Io non conosco bene il paese e non conosco neanche nel dettaglio la cinematografia finlandese, se non quelli che sono i suoi registi più noti. Ma chiaro, anch'io. Aki e Mika Kaurismäki, evidentemente forse loro, il loro cinema ha un po' modellato quello che è l'immaginario cinematografico forse di tutta la produzione. Certo, effettivamente loro stessi... è un tempo ibrido, sospeso, che mischia elementi, esatto, del passato, esatto, del futuro, e però non capisci bene in realtà dove c'è questa sorta di senso di disagio nei confronti del tempo, per cui non sai come collocarti, no? E quindi, esatto, sei sempre in un tempo che per certi versi può quasi ricordare l'ambientazione quasi come quella di Stalker di Tarkovsky, no? Sei sempre in un tempo, esatto, slabbrato, indefinito, in cui tutto passa da un contesto all'altro, da un tempo all'altro. Più che un, come dire, tempo è uno stato mentale, sì, è una distopico a suo modo. Ecco. Quindi tiriamo i fili, i nodi vengono al pettine e i burattini saltellano sul teatro, non so cosa sto dicendo, no? Ritorniamo quindi, io credo, siamo a un minuto, questa è la stanchezza, siamo a un'ora e 28, secondo me potremmo andare delicatamente, distopicamente verso la chiusura, ricordando a quei pochi che ci ascoltano, che possono contattarci, se hanno i nostri contatti, diciamo il canale di contatto preferito in questo momento è il profilo Mastodon stanchediste at nebbia.fail, e sulle altre modalità di contatto cercheremo di aggiornarci, di trovare delle soluzioni, delle possibilità per le prossime puntate. Questa prima puntata di radio dopo più di un decennio, dopo tutto quello che è successo in questi due anni, quei discorsi che abbiamo fatto, no, su questo momento dove si è perso un po' tutto di quella che era la vita normale, no, di prima, eccetera, fare quest'ora e mezza è stato come uno squarcio che mi ha fatto rivedere come erano le cose prima, ed è al tempo stesso bello ma anche quasi un po' doloroso come assaggio. Capisco. Di tutto questo, una cosa che ti ricorda però il tanto che abbiamo perduto. E poi vabbè, questo è anche un discorso, poi ci sono anche degli elementi poi anagrafici, che banalmente stiamo invecchiando e certe cose non le possiamo fare più, ma in questo momento, un po' come in The Truman Show, no? Quando alla fine lui esce da questo set in cui è rinchiuso la sua vita, ecco, anche solo fare un'ora, un'ora e mezza di una trasmissione come questa è stato un piccolo squarcio in quella cappa in cui siamo chiusi. Da quasi 2 anni, quindi io Allora, facciamo così. ringrazio te Ma in no, particolare, ringraziamoci a vicenda. Ringraziamoci a Cappa, vicenda. per l'idea e per la tenacia con cui mi hai in qualche modo Trascinato. trascinato, rincorso e risolto i problemi tecnici, eccetera. Ed è veramente, speriamo che questo sia un inizio, un nuovo inizio e una prima puntata di tante. Allora, Quindi. facciamo che teniamo di questo squarcio, teniamo davanti soprattutto la bellezza e non tanto il dolore del passato. Non tanto perché io sia ottimista, chi mi conosce sa che non c'è niente di più lontano da questo, Sei totalmente nichilista ma in realtà. e non senti più neanche il dolore. No, questo meriterebbe una puntata a parte. No, in realtà, allora, sarebbe complicatissimo, nel senso, però, pur non essendo ottimista, ferocemente attaccato alle possibilità di bellezza che possiamo avere, in questo presente stanco e distopico. E questa parentesi radiofonica, un po' clandestina, un po' anonima, un po' improvvisata, è uno di quei momenti di bellezza a cui mi sento di attaccarmi ferocemente, ed è la ragione per cui Sì. ti ci ho trascinato dentro con caparbietà, perché so che per te è la stessa sensazione alla fine. Sì, è un provare a dire siamo ancora vivi. Esatto. E quindi mentre io gli unici messaggi che ricevo da chi sta ascoltando la trasmissione sono messaggi relativi a dei problemi informatici di cui cercherò di occuparmi quando avrò chiuso la diretta. Vi ricordo, che potrete trovare questa trasmissione, che adesso sta andando in diretta, in formato podcast sulla pagina archive.org di Distopiche Stanchezze. Giusto il tempo di fare quel minimo di pulizia e editing se sono necessari e caricarla quindi nei prossimi giorni. E io ringrazio infinitamente K di essere stato qui con me stasera e spero che davvero sia la Io prima occasione di tante. lo E spero e lo voglio. ecco, questa è la parte importante. Sì, Ring adesso. ringrazio con una sorta di ring composition anche Barbun, che su Nebbia Fail mi ha aiutato tantissimo per cercare di capire qualcosa in più sugli arrangiamenti audio per gestire uno streaming a distanza. Ringrazio voi che, anche se non vi fate sentire, ci state ascoltando. Io so di due persone, poi in realtà queste, appunto, come dicevamo all'inizio, sono conversazioni intime che si aprono a orecchie sensibili. Quindi Non avrei l'allargamento. potuto trovare definizione migliore. Vedi? E non mi pagano neanche, pensa un po'. ci sta, E ci si parlava questo anche di lavoro, esatto. torniamo a quel problema che E visto che dicevamo. torniamo a quel problema, il modo per salutarvi, per darvi la buonanotte, come l'ultima diretta, dite invece che mettere un pezzo che concili il sonno, mettiamo un pezzo che invece vi faccia salire l'adrenalina, sia che voi siate in vena di farvi una nottata di venerdì in giro per le città in cui abitate, sia che semplicemente stiate davvero per andarvi per andare a dormire, e quindi noi vi mettiamo una piccola scarica che magari influenza i vostri sogni. Vi salutiamo così, vi salutiamo con un pezzo che stavolta annuncio perché poi dopo non possiamo più dirvelo alla fine. Abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di stanchezza, abbiamo parlato di distopia, e quindi chiudere con lavorare stanca del teatro degli orrori ci sembra un'ottima chiusura. E visto che questa è una trasmissione estemporanea, un po' anonima e un po' clandestina, ci sentiamo quando ci sentiamo, direi. Prima o A poi presto. torniamo in diretta. Non A presto. saprete quando sui canali Telegram e Mastodon, di cui vi abbiamo parlato un sacco di volte già durante questa trasmissione. Basta, io ho parlato anche Grazie a troppo. tutti. K, grazie a te.